casa moi. Ci scappava ma si sentita una guai. E danza con lui, non te fermare. Chiui, chiui, chiui. Camminati in già la danza, camo lo faccio io. Tu giusto ragamoffi, con lo pensiero mio. Camminati in già la danza, camo lo faccio io. Tu giusto ragamoffi, con lo pensiero mio. Musica potente, la incia se sente. La metrica non vende, espressione permanente. La niente imminente, se lui dice la mente. Sempre in condizione di comunicare. Espressione personale, sto bagnone sta a curtare. A cinca sta a ballare, a cinca sta a danzare. A cinca certe cose, sape poi non c'è che fare. A cinca quando balla mi batte il cuore. Dorso sulle mani, case stanno a tesare. Una sul microfono, una sul cuore. Tanta la gente che sta a sentire. Uniti tra la danza, uniti per capire. Che all'orecchia è un'esigenza, che batte si levare. Come un cigno la giornata, così la sta a spicciare. A tempo di orecchie, che a me sta a secutare. La musica sta brucia, perché è sempre originale. Camminati in la danza, camo lo faccio io. Tu giusto ragamoffi, con lo pensiero mio. Camminati in la danza, camo lo faccio io. Tu giusto ragamoffi, con lo pensiero mio. Camminati in la danza, camo lo faccio io. Tu giusto ragamoffi, con lo pensiero mio. Camminati in la danza, camo lo faccio io. Tu giusto ragamoffi, con lo pensiero mio. Oh no, per chi non ha più la sua identità. Oh no, per chi non scopre la sua verità. Oh no, per chi non vive più in questa realtà. E questa società non cambierà. Oh no, per chi non ha più nient'altro da perdere. Oh no, per non ha più fuochi ma vuole ardere. Oh no, se soltanto ci smettesse di piovere. Oh no, oh no, oh no, oh no. Ed ogni volta si tace e voglio andare più là. Non c'è possibilità di cambiare questa realtà. Non smetterò di cercare nella specificità. Continuerò a immaginare il futuro come sarà. Mi chiedo se si potrà sapere che arriverà. A guadagnarsi successo fa mai credibilità. Chi avrà l'abilità di dirci la verità. Ce l'hanno detta già troppi, ma se non c'è l'anima non si va avanti con solo la propria mentalità. Ma come cazzo ti fa a non capirlo, regà? Devi capire che c'è pure la continuità, che va affiancata in una dose di vitalità. C'è solo un modo che ti togli, non di dubbio si sa. È quello di cantare quando ti va. Camminati in la danza, camo lo faccio io. Tu giusto ragamoffi, con lo pensiero mio. Camminati in la danza, camo lo faccio io. Tu giusto ragamoffi, con lo pensiero mio. Un tiro cocaina, un pino anfetamina. E mio ragamoffi è come una vitamina. La vitra che io tengo è sempre alcalina. Di tu non si giusce, tu che cramalina. A mezzo la gente decore. Ci grida alla pace, ci grida all'amore. Ti porta ricordi ogni giorno nel cuore. A chi lotta perché tutto non sia uguale. A chi vuole soltanto che sia l'espressione. L'unica cosa si nega a dominare. A chi crede al progresso ma vuole lo stesso. Rispetto per gli altri come per se stesso. La musica reggae comunica questo. Diretta nel cuore di chi sa ascoltare. Bagnuni e bagnune o stanno a zumpare. Camminati in la danza, camo lui da fare. Musica potente, cancia se sente. DJ camminati attenti, ne nasciamo andanti. Crasimo su di ritmi e zumpamo tutti quanti. A tempo con la mano, se godo lì lo fate. Scusamo molta magica, la destro stile madre. Base di partenza, di scinca sempre pensa. Di scinca di annanzi, di scinca per la musica. Mi sulu cor annanzi. Camminati in la danza, camo lo faccio io. Tu giusto ragamoffi, con lo pensiero mio. Camminati in la danza, camo lo faccio io. Tu giusto ragamoffi, con lo pensiero mio. Camminati in la danza, camo lo faccio io. Tu giusto ragamoffi, con lo pensiero mio. Camminati in la danza, camo lo faccio io. Tu